Oh Lelia, Lelia, mi hai crudelmente ingannato, mi hai preso in giro con una freddezza che non riesco a capire. Hai acceso nei miei sensi un fuoco divorante che non vuoi spegnere. Hai chiamato la mia anima alle tue labbra e l'hai disprezzata. Non sono degno di te, lo so, ma non puoi amarmi per generosità. Se Dio ti ha fatta simile a sé, non è forse perché segui il suo esempio sulla terra? Se sei un angelo mandato dal cielo in mezzo a noi, invece di aspettare che i tuoi piedi scalino le vette dove cammini, non è forse tuo dovere raggiungerci e insegnarci la strada che non conosciamo? Contavi che la vergogna mi avrebbe guarito. Credevi che svegliandomi tra le braccia di una cortigiana sarei stato illuminato da una luce improvvisa? Speravi nella tua inesorabile saggezza che i miei occhi si sarebbero finalmente aperti e che non avrei più avuto altro che un disprezzo per le gioie che le tue braccia mi avevano promesso e che tu avevi sostituito con le carezze lascive di tua sorella? Ebbene, Lelia, la tua speranza è stata delusa. Il mio amore è uscito vittorioso e puro da questa prova. La mia fronte non ha conservato l'impronta dei baci di Pulcherie e non arrossirà. Mi sono addormentato sussurrando il tuo nome, la tua immagine era in tutti i miei sogni. Nonostante te, nonostante il tuo disprezzo, eri tutta mia. Ti possedevo, ti profanavo, i miei abbracci convulsi, il fremito voluttuoso della mia bocca, tutto questo era per te. Tua sorella non è all'oscuro perché più volte l'ho allontanata. Perdona il mio dolore, oh mia amata, perdona la mia rabbia sacrilega, ingrato che sono, ho il diritto di rimproverarti. Se i miei baci non hanno scaldato il marmo delle tue labbra è perché non meritavo un tale miracolo, ma almeno, almeno dimmi, ti prego in ginocchio, dimmi quali paure o sospetti ti tengono lontano da me. Hai paura di obbedirmi arrendendoti a me? Pensi che la felicità mi renderà un padrone imperioso? Se dubiti, oh mia Lelia, se dubiti della mia eterna gratitudine, non mi resta che piangere e pregare Dio di piegarti perché la mia lingua si rifiuta di fare nuovi giuramenti. Me lo hai detto spesso che non avevo bisogno delle tue rivelazioni, l'avevo intuito. Gli uomini hanno messo a dura prova la tua fiducia e la tua credulità, il tuo cuore è stato solcato da profonde ferite, assanguinato a lungo, e non c'è da stupirsi che le ferite l'abbiano ricoperto di cicatrici insensibili, ma non sai, amore mio, che ti amo per le sofferenze della tua vita passata, non sai che ti adoro per l'anima incrollabile che ha sopportato le tempeste della vita senza piegarsi. Non accusarmi di cattiveria. Se tu avessi sempre vissuto nella calma e nella gioia, sento che ti amerei di meno. Se qualcuno è colpevole del mio amore, senza dubbio Dio, perché è Lui che ha posto nella mia coscienza l'ammirazione e il culto della forza, la devozione al coraggio. È Lui che mi ordina di inchinarmi davanti a te. I tuoi ricordi spiegano a sufficienza la tua diffidenza. Amandomi, temi di alienare la tua libertà? Temi di perdere qualcosa che ti ha costato tante lacrime? Ma dimmi, Lelia, cosa ne fai di questo tesoro di cui vai tanto fiera? Poiché sei riuscita a concentrare in te stessa l'attività divorante delle tue facoltà, sei più felice? Dal momento che l'umanità non è diventata ai tuoi occhi altro che polvere, che Dio permette di agitare per un po' sotto i tuoi piedi, la natura è per te uno spettacolo più ricco e magnifico. Da quando ti sei ritirata dalla città, hai scoperto nell'erba dei campi, nella voce delle acque, nei passi maestosi dei fiumi un fascino più potente e sicuro. La voce misteriosa delle foreste è più dolce al tuo orecchio, poiché hai dimenticato le passioni che ci agitano, hai sorpreso il segreto delle notti stellate. Conversi con messaggeri invisibili che ti consolano con le loro confidenze sulla nostra debolezza e indegnità? Ammettilo, non sei felice. Ti adorni della tua libertà come se fosse un gioiello inestimabile, ma tutto ciò che hai per distrarti è lo stupore e l'invidia della folla che non ti capisce. Non hai alcun ruolo da svolgere tra noi, eppure sei stanca di oziare. Non trovi intorno a te un destino all'altezza del tuo genio e hai esaurito tutte le gioie della riflessione solitaria? Hai attraversato senza tremare le pianure desolate dove il volgo non potrebbe seguirti, le montagne che i nostri occhi osano a malapena misurare? Hai toccato la cima e qui la vertigine si impadronisce di te. Le arterie si dilatano e ronzano. Senti le tempie gonfiarsi, hai solo Dio in cui rifugiarti, hai solo il suo trono su cui sedere. Devi essere empia o ricadrai da noi. Dio ti sta punendo, Lelia. Per aver desiderato il suo potere e la sua maestà, ti infligge l'isolamento per punire la temerarietà delle tue ambizioni. Egli allarga il cerchio della tua solitudine giorno dopo giorno, per ricordarti la tua origine e la tua missione. Ti aveva mandato a benedire e ad amare. Aveva steso sulle tue bianche spalle le trecce profumate dei tuoi capelli per asciugare le nostre lacrime. Aveva osservato con occhio geloso la freschezza vellutata delle tue labbra che dovevano sorridere, il bagliore umido dei tuoi occhi che dovevano riflettere il cielo e mostrarcelo. Tutti questi doni preziosi che hai distolto dal loro uso, ti chiede di renderne conto oggi cosa hai fatto con la tua bellezza. Pensi che il Creatore ti abbia scelta tra tutte le donne per praticare lo scherno e il disprezzo, per deridere l'amore sincero, per rinnegare i giuramenti, per rifiutare le promesse, per disperare i giovani creduloni e fiduciosi? Sei orgogliosa, Lelia, del sonno dei tuoi sensi e dici con coraggio: posso sfidare gli uomini. Non temo più le strette di mano, gli sguardi affettuosi, posso sentire i loro baci ardenti sulle mie labbra senza che la mia ragione sia confusa o smarrita. Posso senza preoccupazioni dare a me stessa lo spettacolo dei loro tormenti senza mai condividerli. Ma non temi il risveglio dei tuoi sensi? Non temi che il tuo padrone, per domare l'orgogliosa rivolta della sua schiava, ti mandi un giorno un desiderio sfrenato e dica al marmo di darsi fuoco? Se questa terribile profezia si avverasse, le vittime supplicanti che hai immolato sull'altare del tuo orgoglio sarebbero ben vendicate. Ti ridurresti a chiedere pietà a coloro che disprezzi. Le tue labbra sarebbero sporche e imploreresti gli sguardi che oggi non vedi. Che umiliazione, vero? Non si sprofonderà mai così in basso. Ah! Piuttosto, torna da noi, aprimi le braccia e non disperare di te stessa. Fammi sentire il potere delle mie carezze sui tuoi sensi intorpiditi. Lascia che ti ringiovanisca e ti faccia rivivere. Lascia che ti abbracci e ti faccia gridare di dolore. Vieni da me, Lelia. Sarò paziente e rassegnato. Aspetterò senza rabbia che il tuo sangue si scaldi e il tuo cuore si espanda. Non ti ordinerò di essere felice come lo sono io. Mi dedicherò alla tua felicità. E sono sicuro, arriverà un momento in cui le nostre lacrime si mescoleranno. Le nostre anime, fuse in una beatitudine comune, ringrazieranno Dio. Vivrò in te, riscoprirai l'euforia della tua giovinezza, forse più vivida e meno fugace. Ah, tu ridi delle mie speranze. Hai pietà della mia ambiziosa fiducia che vuole riaccendere le ceneri, ma mia povera Lelia, finché il vento non ha spazzato via le ceneri, non è una follia cercare un fuoco sepolto che aspetta solo l'aria per riaccendersi. Forse, o mia Lelia, nel tuo cuore c'è una parte sconosciuta di te stessa che non ha ancora sanguinato e che l'amore può raggiungere. Chi può sapere quale potere è contenuto nella passione sincera e chi può vantarsi di aver esaurito le facoltà che il cielo ti ha dato? Se mi avessi affidato il tuo destino, non appena capisti la felicità che mi aspettavo da te, avresti ripreso subito la vita per farmi vivere giorni migliori. Ti saresti sentita infiammata da una generosa emulazione e gelosa di superarmi in devozione e abnegazione. Avresti dimenticato le sventure della tua giovinezza, sforzandoti come un abile pilota di indicarmi con il dito gli scogli sui quali la tua nave si è infranta. Questo scambio rapido e continuo di protezione materna e di pietà filiale ti avrebbe presto rigenerata, rafforzandomi al tempo stesso contro i pericoli del futuro. Me l'hai detto spesso e ci credo. Nella tua anima ci sono misteri che non posso penetrare, recessi oscuri che il mio occhio non può scandagliare, ma dal giorno in cui mi amerai, Lelia, ti conoscerò completamente perché non lo ignori. E per quanto giovane nella vita ho il diritto di affermarlo, l'amore è come la religione. Rivela e illumina molte vie nascoste che la ragione non sospetta. Dal giorno in cui le nostre due anime si fossero unite in una santa comunione, Dio ci avrebbe mostrato l'una all'altro e io avrei letto la tua coscienza con la stessa chiarezza della mia. Ti avrei presa per mano e sarei sceso con te nei tuoi giorni che svaniscono. Avrei contato le spine che ti hanno ferita. Avrei visto sotto le tue cicatrici il sangue che è colato giù e le avrei premute con le mie labbra come se stesse ancora scorrendo. Conservi la tua amicizia per Trenmore, la tua amicizia è sufficiente per lui perché è forte, è purificato dall'espiazione, cammina con passo deciso e conosce la meta del suo pellegrinaggio, ma io non ho la volontà che fa la grandezza e l'energia del ruolo virile, non ho l'egoismo invulnerabile che sottomette ai suoi disegni le passioni che lo ostacolano, gli interessi che lo imbarazzano, i destini gelosi che ingombrano il suo cammino. Non ho mai nutrito nel mio cuore altro che desideri elevati, ma irraggiungibili. Ho provato piacere nello spettacolo di grandi cose e ho desiderato che la loro società intima e familiare non mancasse mai di riempire le mie fantasticherie. Ho vissuto nell'ammirazione assidua di personaggi superiori e ho sentito dentro di me il bisogno imperativo di imitarli e seguirli. Ma vagando senza sosta da un desiderio all'altro, le mie meditazioni solitarie e le mie ferventi preghiere non ottennero mai, dal Dio che mi aveva creato, la forza di realizzare ciò che avevo bramato, ciò che avevo covato sotto l'ala dei miei sogni. Bene, Lelia, è per questo che ti amo. Hai preso il mio ruolo che gli uomini ti hanno rifiutato. Lungi dal ripudiare la tua, te lo chiedo in ginocchio, ne sono certo, in anticipo, tu vorrai tutti i miei desideri e i miei desideri non oltrepasseranno mai gli angusti limiti della tua volontà. Se avessi ricevuto dal cielo una natura ordinaria, avrei trovato lungo la strada molti cuori a cui dare il mio amore, molti affetti docili in cui piantare la mia speranza e la mia ambizione. La prima spalla che mi fosse capitata sarebbe stata buona per riposare la testa, la mia fronte sarebbe stata rinfrescata da tutte le labbra, avrei impastato da un'argilla comune la felicità dei miei anni. Ma Dio mi ha posto più in alto o più in basso di tutti questi. I miei piedi sanguinerebbero per camminare sul sentiero tracciato prima di loro, eppure ai primi passi che voglio fare trovo davanti a me rovi che devo strappare. E la solitudine del viaggio non mi salva dalle ferite pungenti. Sei tu, dunque, Lelia, che devi essere e che sarai, spero, la mia guida e il mio sostegno. Sarai tu la mia luce e il mio consiglio. Sei tu che con la tua mano severa e costante mi indichi ogni giorno la meta a cui il mio cuore aspira e che la mia mente non sa distinguere. È in te, o mio amato, che confido e riposo, e la tua voce profonda e calma che deve imporre il silenzio al rumore discordante dei miei pensieri, alle battaglie tumultuose delle mie folli fantasie. Un'altra donna, come sai, bella e giovane, ma debole e instabile, non troverebbe nel mio amore ignorante la felicità e la sicurezza che meriterebbe. Invano chiederebbe al mio pensiero ansimante la saggezza che non ho, la fermezza che ancora cerco. Le sue ingenue carezze mi affliggerebbero invece di consolarmi, i suoi baci sarebbero lamentele e le sue lacrime di gioia rimproveri senza risposta. Ogni volta che mi diceva vai e ti seguirò, ero pronto a chiederle perdono. Per questo, Lelia, non posso dubitare senza impietà, non posso negare senza blasfemia che Dio non ti abbia creata per illuminare il mio cammino, che non ti abbia scelta tra i suoi angeli prediletti per condurmi al fine segnato in anticipo nei suoi decreti eterni. Non metto nelle tue mani tutta la cura del mio destino, perché tu hai il tuo da compiere e questo è un fardello abbastanza pesante per le tue forze, ma quello che ti chiedo, Lelia, è che tu mi permetta di obbedirti, che tu permetta che la mia vita sia modellata sulla tua, che tu permetta che i miei giorni siano riempiti di lavoro o di riposo, di movimento o di studio, secondo i tuoi disegni, che so non saranno mai cambiati. capricci frivoli. A queste umili preghiere, che avevi indovinato 100 volte ai miei occhi, hai risposto con scherno e delusione. E a te che ho affidato le mie ultime speranze, è in te che mi sono rifugiato. Se mi manchi, oh Lelia, che ne sarà di me? 4. Forse Stenio ho sbagliato nei miei rapporti con te, ma questo torto non è quello che mi rimproveri, è quello di cui mi accusi. Non lo commetto, non ti ho ingannato, non ho voluto prenderti in giro. Forse ho avuto qualche momento di disprezzo, qualche sbuffo di rabbia a causa tua e accanto a te, ma era contro la natura umana, non contro di te, bambino puro, che mi sono irritata. Non è stato per umiliarti, né tantomeno per scoraggiarti della vita che ti ho gettato tra le braccia di Pulcherie. Non ho nemmeno cercato di darti una lezione. Quale trionfo potrei assaporare nel prevalere con la mia fredda ragione sul tuo inesperto candore? Tu soffrivi, aspiravi alla fatale realizzazione del tuo futuro. Io volevo soddisfarti e liberarti dai tormenti di una vaga aspettativa e di un'ansia ignorante. È forse colpa mia se nella tua ricca e fertile immaginazione hai attribuito a queste cose più valore di quante ne abbiano. È colpa mia se la tua anima, come la mia, come quella di tutti gli esseri umani, possiede immense facoltà di desiderio e se i tuoi sensi sono limitati per la gioia. Sono forse responsabile della misera impotenza dell'amore fisico a calmare e curare l'ardore bruciante e capriccioso dei tuoi sogni. Non posso né odiarti né disprezzarti per aver sofferto ai miei piedi il delirio dei sensi. Non è dipeso dalla tua anima spogliarti della struttura grossolana in cui Dio l'ha esiliata, e tu eri troppo giovane, troppo ignorante per discernere i veri bisogni di quest'anima poetica e santa dalle aspirazioni bugiarde della materia. Hai preso per un bisogno del cuore ciò che era solo una febbre del cervello. Hai confuso il piacere con la felicità. Tutti noi facciamo lo stesso prima di conoscere la vita, prima di sapere che non è dato all'uomo di realizzare l'una cosa attraverso l'altra. Questa lezione non è mia, è il destino che te la dà. Per me, il cui cuore materno era glorioso del tuo amore, dovevo rifiutare l'umiliante indulgenza di procurartelo, e se tra le braccia di una donna avessi incontrato la tua prima delusione, avevo il diritto di consegnarti alle braccia di una donna la cui professione è acconsentire e non credere. Non ho cercato di arrossare la tua fronte, e hai ragione a dire che il piacere non l'ha macchiata. Ti amo, ti stimo oggi come ieri, non vedo nulla di cambiato in te se non che hai imparato e sofferto. Mi fai pena, e la mia tenerezza aumenta. Sono io che sarei umiliata e abbassata se ti avessi servito come Pulcherie, come torcia per scendere in questi abissi di nulla e di solitudine. Un ruolo del genere è ripugnante, lo confesso, per il mio orgoglio, ma è colpa tua. Non avresti dovuto adorarmi come una divinità per chiedermi poi di essere la tua schiava e la tua sulamita. Non ho voluto invecchiarti e trasformarti. Non ho deciso, come pensi, di ispirarti disprezzo per i piaceri del piacere. Al contrario, vorrei che li avessi trovati più attraenti e che avessi inebriato i tuoi sensi e riposato la tua mente per qualche giorno. Allora saresti tornato da me più calmo e più capace di apprezzare il fascino puro di un affetto casto. E invece ti sei ostinato a cercarmi tra le braccia di un'altra. Hai cercato, figlio incauto e colpevole, di profanare con il pensiero ciò che dovrebbe essere sacro per te. Ma per fortuna, Dio ha negato al desiderio il potere di consumare senza nutrirsi. Ha posto gli oggetti del tuo culto al di fuori della tua portata per evitare che, dopo averli toccati e guardati, li rifiutassi con disprezzo. Il sangue di Cristo era chiuso nei vasi sacri e nascosto dietro le pareti dorate del tabernacolo. Se gli occhi della folla potessero penetrarvi, la folla imparerebbe presto a dubitare e a negare. Così, tra l'anima e i vaghi oggetti delle sue aspettative, Dio ha posto ostacoli invisibili ma invalicabili affinché il fuoco dei santi desideri non si spenga in lei con l'esame e il possesso. Questa era la mia missione per te E l'ho portata a termine, più esperta, più provata di te, più vicina al cielo perché più distaccata dalla terra. Dovevo brillare davanti a te come la stella che condusse i magi ai piedi del re delle nazioni. La stella non era Dio, non era nemmeno un angelo, era una torcia accesa dal soffio dell'Onnipotente per illuminare il cammino dei pellegrini. Se i pellegrini fossero stati in grado di comandare la stella, di rallentare il suo volo o di premerla, di attirarla verso di sé e di sostituirla a loro piacimento nell'etere, beh, la stella sarebbe svanita nella sua atmosfera, si sarebbe spenta con il vento del loro respiro ed essi sarebbero stati abbandonati nell'oscurità, nel cuore di valli sconosciute, sulle rive di fiumi di cui non conoscevano il nome. Ti irrito quando ti parlo così, perché ti tratto, dici, come un bambino? Beh, di cosa ti lamenti, Stenio? E perché ti umili per essere più giovane e più felice di me? Ti ho mai rimproverato di non aver superato il corso del tempo e di non esserti indurito alla fatica quando la tua infanzia si è assopita sui fiori? Ahimè, figlio mio. Credi che io sia orgogliosa delle mie sofferenze? Pensi che io ne sia uscita senza macchie e senza contaminazione? La vittima strappata e mezza rotta dagli orrori della tortura getta uno sguardo audace e vanitoso sulla folla? Non ha forse ruggito o bestemmiato sotto il ferro dei carnefici? Se non tradì la sua fede e non rinnegò il suo Dio, non fu forse perché le fu data un po' di tregua, visto che stava perdendo le forze fisiche e la sensazione del dolore? Quante volte, nell'agonia del mio cuore, mi sono lasciata cadere a terra, inerte, sfinita, e ho gridato come un'ultima maledizione: Dio, vendicatore, rallenta i tuoi colpi. È una perdita di tempo perché non li sento più. Figlio sottomesso, che Dio non ha ancora castigato, le cui preghiere accetta come puro incenso, non invidiare il fervore e le lacrime del penitente che batte la fronte sui gradini del tempio. Dio può ammetterlo a condividere i tesori della sua misericordia, ma le sue prove non sono finite. Prima di avere un trono tra le potenze del cielo, dovrà strisciare a lungo su una terra di espiazione e punizione, dove la morte eterna lo sorprenderà, forse in un giorno di stanchezza e di dubbio. Giustizia inflessibile, equità sovrana, risparmia l'opera del giovane e coraggioso, risparmia il vento dalle piante delicate, rendi la vita dolce e tranquilla a Stenio. Stenio non ha alcun crimine da espiare. Una volta ti ho parlato in una lingua diversa, mio giovane poeta, ho cercato di ammorbidire la tua rigidezza e la tua rigida saggezza. Ti ho mostrato i meriti di tre morti, ho insegnato a rispettare le grandi disgrazie e le grandi volontà, ma non ti ho detto di guadagnarti il mio amore gettandoti nelle stesse trappole. Oh, rimani puro, rimani calmo per molto tempo. Ti ho detto che ti amerò in modo diverso da Trenmore, ma forse ti amerò di più. Trenmore sarà mio fratello e tu mio figlio. Egli sarà il mio sostegno come io sarò il tuo, e noi tre, aiutati l'uno dall'altra, uniti nel santo amore, arriveremo alla verità, alla saggezza, al riposo forse. Non ho mantenuto le mie promesse, non ho mantenuto il mio rispetto per Trenmore, la mia tenerezza per te, ho forse ritirato la mano che ti sosteneva. Perché, ad ogni passo, spaventato e stanco, rimani indietro, mormorando contro la guida che hai scelto? Perché lo stupore e la paura ti spingono a lasciarti andare, mentre aggrappandoti a noi potresti passare indenne attraverso il pericolo? Sei irritato perché, cedendo a desideri infantili, ho dato loro il resto per placarli? Quale profanazione ho commesso abbandonandoti alle carezze di una donna bella e giovane che, prendendoti, si è data a te senza degradazione, senza patto? Pulcherie non è una cortigiana volgare, le sue passioni non sono finte, la sua anima non è sordida. Le importa poco degli impegni immaginari di un amore duraturo, adora un solo Dio e sacrifica solo a lui, e questo Dio è il piacere. Ma sapeva rivestirlo di poesia e di una castità cinica e coraggiosa. I tuoi sensi hanno richiesto il piacere che lei ti ha dato e che la mia ti avrebbe rifiutato. Perché disprezzare Pulcherie? Perché ti ha soddisfatto? Perché maledire Lelia? Perché ha cercato fuori di sé ciò che le avevi chiesto e che non possedeva?